In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Miei cari amici vicini e lontani, ovunque voi siate, buongiorno. Così recitava Lunzio Filogomo negli anni 60-70 quando ha aperto Mamma Rai i programmi radio-televisivi. Lui era palermitano e noi questa mattina abbiamo voluto ricordarlo. Buongiorno a tutti da Francesco Puglisi, primo appuntamento della settimana, questo è Slalom, insieme sino alle ore 13 in diretta su CRM Happy Radio, la radio che potete seguire da qualsiasi parte del mondo voi vi troviate, grazie soprattutto al nostro sito internet che è www.crmepiradio.it, all'interno del quale potete fare anche i vostri le vostre richieste e i vostri saluti. Vi ricordo inoltre i nostri numeri telefonici che sono 0921 92 32 92, oppure il 335 56 37 251. Quest'oggi è il 100° giorno dall'inizio dell'anno, la Chiesa Cattolica festeggia San Ezechiele e la luna è nuova. Questa è un po' le informazioni che possiamo dare già in apertura di trasmissione. Durante il corso della trasmissione ci raggiungeranno telefonicamente alcuni amici, tra cui Patrizia D'Antone, che è una nota attrice siciliana, e avremo proprio il privilegio e il piacere di averla all'interno di Slalom e presenterà quella che è la sua il suo programma teatrale che sta portando in giro per la Sicilia. Ma avremo tante altre cose interessanti che lei stessa, dalla sua voce, ci presenterà. Iniziamo subito con la musica, Pink. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Stop. il 10 aprile del 2012 la Apple tocca i 600 miliardi di dollari di capitalizzazione, diventando la prima azienda nel settore della tecnologia al mondo. In passato solo un'altra compagnia aveva raggiunto questo livello, la Microsoft, che nel 1999 aveva raggiunto 619 miliardi di dollari. Continuiamo ancora con la musica e salutiamo Valeria che ci ha richiesto questo pezzo. Già anticipatovi prima, abbiamo ospite, ci ha raggiunto telefonicamente una nostra cara amica che è Patrizia De Antonio, che già abbiamo in linea, suppongo. Ciao Patrizia, come stai? Buongiorno a tutti, molto bene, grazie. Allora, io ti ho detto prima, quando ci siamo sentiti stamattina, non facciamo un'intervista vera e propria perché per il rapporto di amicizia che abbiamo, mi piace un po' parlare di te, di quello che stai facendo, di quello che, come ti muovi, ma soprattutto delle tue belle iniziative. Allora, dimmi tutto. Allora, la cosa, diciamo, che ha un forte valore per me, sia per il mio lavoro ma sia come anche ricaduta sul territorio, è questo stage di cui io faccio parte come docente. Si chiama Voyage du Geste. Dal 2000 un gruppo di artisti, Francia, Italia, Belgio, Portogallo, Libano e Palestina, si muovono insieme per favorire la mobilità dei giovani nei paesi del bacino del Mediterraneo, per cui a scopo formativo ma anche a scopo poi ovviamente di reciproca conoscenza. Quindi, diciamo, il mio compito in quanto come dire, artisti formatori, ci chiamiamo in una maniera un po' informale, è quello di radunare giovani che posso portare con me per dei progetti di formazione internazionale. Quest'anno saremo in Libano ad agosto, in un piccolo villaggio a sud di Beirut, nelle montagne, dove appunto quattro giovani provenienti da cinque paesi, io ovviamente i partecipanti libanesi e palestinesi saranno un po' di più perché sono nel territorio diciamo che ospita il progetto, e si incontreranno sia per una questione diciamo formativa. Quest'anno il nostro progetto si chiama Looking for a Spring, sì, quindi cercando la primavera, che più che mai attuale, ahimè, in tempi così difficili come quelli che viviamo, e quindi insomma cercare di mantenere viva una fiammella, una speranza. Che cosa è la primavera? La rinascita, quando appunto, come dire, rifiorisce la terra. Certo. In attesa della luce solare, del sole estivo. Ma possono partecipare tutti? Come funziona? Ma ovviamente noi ci indirizziamo soprattutto a giovani che lavorano nel campo del teatro, uh-huh, e che vogliono delle arti viventi, delle arti vive, come si usa più dire in termini francesi. Quindi cioè quelle arti, danza, scena, che hanno a che fare con la scena, e quindi ovviamente però in un territorio anche più vasto, quale potrebbe essere, non so, la scenografia, le marionette. Ah, per esempio un nostro docente, il partner libanese che organizza, è specialista di teatro d'oggetto e di costruzione di marionette. Ah. Quindi per esempio ragazzi che lavorano nel campo della marionetta, nella musica, fra i formatori c'è Yvon Bayet, che è un musicista, danzatore, quindi fa lavorare moltissimo in quello che è il corpo sonoro, il ritmo. E poi ci sono delle specialiste che sono coreografe francesi, ma che sono specialiste di tecnica Alexander per la conoscenza del movimento e del corpo. Ci sono io, che nella fattispecie mi occupo specificamente di teatro e in questo contesto più sulla parola, quindi sulla narrazione, ma anche sul modo di come uno stesso testo, per esempio, questa è una mia ricerca specifica, uno stesso testo possa essere vissuto in più lingue, in lingue diverse, quindi quali che cosa può succedere se per esempio Josephine venisse diciamo tradotta in lingua araba o in qualsiasi... Beh, Josephine vive già di una sua sì, di una sua personalità, di una doppia personalità italo-francese, tripla personalità, perché comunque ora ne parliamo di Josephine, di quello che veramente tu hai creato all'interno di quello spettacolo che hai proposto sia a Catania ma anche qui in provincia di Palermo. Comunque sì, completiamo il Josephine, diciamo che è una produzione, una creazione che un po' esula, perché io sono un'appassionata di mitologia, infatti diciamo nell'ambito per esempio del rito della luce, questo di Antonio Prezzi, che è stato fatto sia a Catania recentemente che anche alla piramide, in realtà io uso una mia maschera che viene dal mio spettacolo, che è dedicato ai miti greci, c'è una rivisitazione di Persefone, di Icaro e di Medea. Però in questo caso l'ultima, diciamo, l'avanzare dell'età e ovviamente la tristezza dei tempi spinge al desiderio di essere più leggeri, ma una leggerezza che non per questo sia meno profonda, per cui è venuto fuori Josephine d'Ormoni e la libertà, perché il mio personaggio è italo-francese, e quindi il gioco è di dire che non è vero che il passare dell'età produce semplicemente, come dire, negatività, anzi tutt'altro. Il passaggio dell'età anche per le donne, superata la tempesta, diciamo, di questo passaggio terribile che può essere la menopausa, in realtà porta grandissimo beneficio, soprattutto in termini, io penso, di, speriamo, di saggezza. Questo è quello che io mi auguro. Però a me piace leggere questo, dove nella tua biografia ho letto questo: l'inevitabile passare del tempo trovano soluzioni naif, ma non per questo meno efficaci, per sorridere davanti alla fatica delle relazioni. Questa è molto bella comunque. Sì, perché comunque ovviamente io non mi invento nulla, sono una donna adulta e di conseguenza, diciamo, ho verificato personalmente quanto sia difficile conoscersi, accettarsi e avere relazioni che poi diventano semplici, perché comunque viviamo in un mondo che è sempre più complicato. O forse lo rendiamo noi complicato, Patrizia. O lo rendiamo noi complicato? Ma è possibile, comunque, diciamo, io ricordo, per fare un esempio semplice, no? Che un tempo i miei genitori, fidanzatissimi, ma questa è una cosa che ho scoperto anche recentemente guardando, diciamo, osservando film, si scrivevano una lettera al giorno. Allora, in questo scriversi, probabilmente moltissimi conflitti, cioè questo utilizzo della scrittura, che è uno dei mezzi anche straordinari per poter, come dire, buttare fuori, no? Tirare quello fuori che abbiamo da te, dentro, sì. Era in qualche modo anche uno strumento di conoscenza e di relazione. D'altronde la formula moderna di questo, traslata, è stata la chat, per dire, no? Che moltissime storie si sono incontrate attraverso un modo di usare la scrittura, quindi di conoscersi, anche se ovviamente in termini magari probabilmente, non lo so, più superficiali, perché io non l'ho mai usata. E siccome recentemente, tra le tante cose e le sollecitazioni che ho ricevuto come artista che ama moltissimo la musica, ho ricevuto una sollecitazione e mi sono occupata di Alma Mahler e Clara Schumann, mi sto occupando di questo, di due mogli illustri, sì. E per esempio Robert Schumann con la sua giovanissima moglie, quando si sposano, il primo giorno le consegna un diario in cui le dice che sia questo il nostro diario in cui noi possiamo raccontarci settimanalmente quello che abbiamo fatto, ma anche parlarci a un livello che probabilmente una comunicazione diretta non ci consentirebbe. E quindi è fantastico, perché diciamo lui, Robert Schumann, individua in questo strumento una possibilità. Dico, però questo ha a che fare con un'azione semplice, che se vuoi è quella dello scrivere, ma che adesso è completamente dimenticata, perché viviamo sempre di più nella velocità, nelle immagini, cioè questo momento di riflessione che possa aprire, per cui dico, una cosa semplice adesso diventa difficilissima da poter... Sì, sì, è vero, ma io ti devo dire una cosa, tu mi hai colpito in maniera profonda, perché tempo fa, quando sistemavo delle carte, sai, in casa e così via, trovai delle lettere che mio padre scriveva a mia madre e mia madre scriveva a mio padre, per dirti, insomma, che quello che hai detto è la sacrosanta verità, nel senso che comunque prima per tirar fuori quello che era i sentimenti, quello che era il rapporto, si scriveva molto e si rendeva più semplice il rapporto. Concludiamo velocemente, volevo dirti questo, così magari parleremo in altre occasioni, se tu sarai disponibile a accettare una nostra sempre certo, essere ospite all'interno di questa trasmissione. Allora, Looking for a Spring partirà quindi dal 3 al 20 agosto nel villaggio vicino a sud di Beirut. Aitura, sì. Aitura. Possono partecipare giovani. Che sì, diciamo sono... che ormai parliamo di un bando che io ho lanciato a febbraio e che ovviamente ha ricevuto non tantissime, però diciamo ho già in qualche modo chiuso il gruppo della partecipazione, perché ahimè posso portare con me soltanto 4 giovani. Vabbè, diciamo che comunque sappiamo che c'è, sì, no, comunque è stato anche pubblicato dal nostro sito, sì, Balarm, sì. Per esempio, questo che informa. No, dico perché magari possono esserci giovani che hanno desiderio, perché moltissimi ovviamente rilevano che noi offriamo diciamo la partecipazione è gratuita a fronte di un'iscrizione di 250 euro. Sì, sì, sì, sì, perché siamo finanziati al 60%, quindi io come associazione devo tirare fuori dei soldi, quindi diciamo lo facciamo in una maniera molto militante questo sì, lavoro, sì, sì, sì. Perché la Fondazione Anna Lindt ci finanzia al 60%, quindi considerato che già un biglietto attualmente da noi, da Palermo, dalla Sicilia per Beirut è all'incirca tra 500 e 600 euro, se ci spicciamo, cioè se dobbiamo, certo, se facciamo in fretta, quindi effettivamente è un'occasione straordinaria. E abbiamo molte testimonianze del fatto che, ma come quello che ci dicono più che altro, al di là diciamo delle conoscenze tecniche e dell'approfondimento professionale, Voyage du Geste sta diventando, dopo 13 anni di vita, una modalità dello stare insieme e del rispetto reciproco, non solo fra culture diverse, ma anche in una modalità tra la persona che apprende e colui che dà, perché per esempio fra di noi formatori c'è un costante aggiornamento, diciamo. Sì, ma a livello di scambio è sicuramente quello che pensano. Abbiamo sempre instaurato una modalità della comunicazione, della condivisione con i ragazzi, cioè tutti i problemi in qualche modo si discutono a fine giornata, se sono nati. In genere sono state sempre esperienze molto molto bene. entusiasmanti. Complimenti. Senti, poi chiudiamo anche per quanto riguarda Josephine. L'hai portato al teatro a Catania, al Canovaccio, e quindi comunque sarà a Palermo o non? Com'è, sì, com'è? Diciamo che Josephine continua per fortuna a vivere, è stato ospite in un circolo a Siracusa dove avevo lavorato quella scorsa estate, poi è stato per l'inaugurazione di un bellissimo palazzo ottocentesco rimesso, diciamo, ritornato a una vita, diciamo, a Canicattì, provincia di Agrigento, e poi qui su Palermo io mi appoggio a un teatrino fantastico, un teatro di 60 posti che è il Teatro di Tirammu, sì, dove appunto è sempre in itinere, molto probabilmente lo rifaremo adesso, diciamo, in primavera e quasi sicuramente in estate, diciamo, nella programmazione estiva del Teatro di Tirammu, che è uno spazio aperto fuori. Ok, Patrizia, io ti ringrazio, ti auguro tutto il bene di questo mondo e speriamo di averti prossimamente ospite nuovamente all'interno di questa trasmissione. Un bacione. Ciao Francesco, grazie, grazie a tutti cose. Voi. Grazie veramente. Ciao. Slalom. Flashback. About the generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. Brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the wound. Better. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Yeah. Pop in questo momento la nostra cara amica Patrizia Curreri, che sarà ospite di cosa? Cosa farai? Con Giacomo Sapienza nel programma Note parleremo di nuovo di Mezzogiorno in Famiglia. Ci saranno i ragazzi, quasi tutti i ragazzi con il caposquadra che hanno partecipato a questo evento, e quindi parleremo un poco così. Ci potete fare anche delle domande, potete inviare sms, telefonare e magari appunto dirci qualche curiosità anche del programma che magari non avete capito e che magari possiamo svelarvi. Ma questa esperienza com'è? Allora, a livello materiale, nel senso viaggio, questo è un po' devastante, però a livello emotivo, anche di compagnia, è stato bellissimo. Appunto ci siamo trovati un po' tutti bene, e anche lì la trasmissione è stata divertente, poi davanti a delle telecamere, uno studio televisivo, naturalmente l'emozione c'è, si vede ed è bello comunque, dai, una bella esperienza, non tutti la possono fare. Ma tu di recente stai facendo radio, stavolta TV, non è che ti stai montando un po' la testa, no? No, assolutamente no, anche perché comunque sempre sto imparando tante cose, soprattutto qua in radio, Angelo mi dà questa opportunità, quindi anzi ora ne approfitto perché appunto è iniziato pure il corso radiofonico, quindi sta dando anche la possibilità ad altri ragazzi di fare questa esperienza che è veramente importante, non solo per imparare qua macchie ingegne e cose varie, ma anche per sapersi esprimere e dare la propria, non so, la propria anima al pubblico. Diciamo che coltivare e far crescere in sé questa passione di fare radio. Sì, tu infatti. Sei la gioventù, io sono un po' lanta. Va bene, continuiamo ancora con la musica. Questo è Slalom, sarete ancora in compagnia con Francesco Puglisi sino alle ore 12 in diretta su CRM P Radio, la radio che potete seguire da qualsiasi parte del mondo voi vi troviate grazie al nostro sito internet che è www.crmepiradio.it. da lì potete fare anche le vostre richieste musicali e anche i vostri saluti. Vuoi dire qualche altra cosa, Patrizia, oppure no? Siete numerosi anche dopo le 12. No, questo fuori di dubbio, comunque, anche perché tu giochi in casa rispetto a me. Volevo ricordare anche che Facebook, siamo a 5130, una cosa di questo genere mi è sembrato stamattina di vedere, quindi comunque stiamo crescendo in maniera esponenziale, quelli che sono, diciamo, i nostri amici che ci seguono tramite Facebook. Questo vi permetterà comunque di avere delle notizie aggiornate, di essere sempre informati su quello che succede alla radio, ma quello che succede anche fuori alla radio, perché il nostro spazio all'interno di Facebook serve anche per questo, per comunicare anche delle notizie, anche di cronache che avvengono durante il corso della giornata. Continuiamo con la musica, questa è una richiesta e a noi accontentiamo le richieste che giungono qui in radio. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. In questa notte fantastica che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione. In questa notte fantastica, in questo inizio del mondo, i nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere, ti porto via con me. In questa notte fantastica ti porto via con me. Ribalteremo il mondo, oh. Una fischiata di bassi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova. Dentro la macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori. Un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. DJ suona, musica buona, BPM 130. Respira, respiro, ti porto via con me. In questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che che esplodono in mezzo alla via, fanno una luce più forte del sole in questo spazio elettronico. Posso toccare il cielo, ti porto via con me in questa notte fantastica, ti porto via con me, ribalteremo il mondo. Una cascata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita. Questo incontro Bersani-Berlusconi è andato bene, speriamo, anche perché dare una svolta a questo paese che veramente ne ha necessità, ne ha voglia, ma soprattutto abbiamo necessità di ripartire l'economia, abbia necessità veramente l'economia che abbia un impulso da parte dei nostri politici, che ci diano veramente manforte per far sì che questi giovani, che sono ahimè disoccupati, ritrovino fiducia nello Stato italiano, ma soprattutto ritrovano fiducia in quella che è la vita, e quindi è il lavoro che è importantissimo, ma soprattutto la crescita professionale. Quindi speriamo bene per questi due politici che ci permetteranno comunque di dare spunto e soprattutto di dare nuova energia all'Italia. Continuiamo con la musica, salutiamo Francesca che ci ha richiesto questa canzone firmata Cesare Cremonini, intitolata La nuova stella di Broadway. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea, e chi non ha mai visto nascere una dea, non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet, lei vestita come la Roger, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, ti chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di... là fuori Union Square entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Garofano rosso e

sulle ultime note di questa canzone di Nina Zilli intitolata Per Sempre. Francesco Puglisi vi saluta, vi ringrazia di aver seguito questa trasmissione, vi rinnova l'appuntamento a venerdì, sempre su CRM dalle 11 alle 13 in diretta. Adesso vi lascio in compagnia di Giacomo Sapienza con il programma Note, dove ci saranno, oltre i vari ospiti come detto stamattina, anche la nostra cara amica Patrizia, ci saranno anche, chi ci sarà Patrizia? Ci saranno tutti i vari personaggi del... Alcuni, non tutti. Non tutti i personaggi che hanno partecipato al programma del... Come si intitolava? Buongiorno? Mezzogiorno in famiglia. Siamo a mezzogiorno, quindi. Ok, perfetto. Salutiamo anche Padre Liborio Asciutto che ci ha raggiunto qui all'interno degli studi. Io vi auguro buona vita e se il buon Dio lo vorrà, noi ci vediamo e ci sentiamo venerdì. Buon proseguo dei programmi.